Evviva! Farà papà! Nemmeno di te il senso, lavoro casa chiesa con te, sicuro che te le na para papà, para papà, para papà, papà, papà, papà, padrone, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, Bop, bop, bop, bop, bop, bop.